E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa attraverso le tante voci d'Europa, un programma in collaborazione con Euronet, un network europeo per raccontarvi le altre Europe da tanti punti di vista. Ci trovate però in diretta anche su Facebook, la nostra pagina facebook.com/l'altra Europa, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, siamo anche in chat in diretta per essere più interattivi, oppure via SMS al 349-238-6666. Tante sfaccettature, tante notizie, tanti spunti per raccontarvi un'altra Europa e oggi partiamo da un piccolo angolo nei Balcani, il Kosovo. Uhecës të lidhjes demokratike të Dardanisë entën kanë vazhduar fushatën në qytetin e Kastriotit ku kërkuan kokrën e elektoratit me 12 vjetor. Nën kryetari i kësaj partie Lulzim Zeneli ka thënë se misioni i LDD-s është ndryshimi i Kosovës për të mirë. Abbiamo estrapolato uno dei tanti servizi che in questi giorni nella televisione kosovara sta raccontando le elezioni, perché domani il 12 dicembre ci saranno le prime elezioni dopo l'indipendenza proclamata da Pristina il 17 febbraio del 2008. Partecipano 29 partiti, è un appuntamento importante, un appuntamento atteso che abbiamo scelto di raccontarvi insieme all'Osservatorio Balcani e Caucaso, un importantissimo portale, abbiamo già conosciuto in alcune puntate fa del nostro programma, un osservatorio di giornalismo partecipativo, anche qua oggi parleremo molto di giornalismo partecipativo e con noi c'è una delle persone che ha seguito in questi giorni un po' gli umori, un po' le attese in Kosovo, ha pubblicato anche dei belli articoli sul portale e diamo il benvenuto a Mariola Rucai. Ciao Mariola. Buongiorno, ciao. Ciao, ben ritrovata. So che sei appena rientrata in Albania, ma fino a poche ore fa eri in Kosovo. Che aria si respira? Qual è la situazione che hai fotografato, che hai visto, che hai respirato? Sì, sono appena ritornata, infatti l'aria che si respira, diciamo, non porterà molte cose nuove, anche se in realtà ci sono anche delle novità in queste nuove elezioni, nel senso i partiti che vi partecipano sono quelli tradizionali, il PDK del premier uscente e il partito che porta avanti ma che è l'eredità politica di Rugova, l'LDK, e in seguito vi sono degli altri partiti di poco conto, diciamo, che non avranno molto peso, sì. Esatto. E in più come novità c'è appunto l'ingresso in politica del movimento Vedvendosia. Quindi in più una novità molto interessante è la formazione di un nuovo partito che rappresenta in qualche modo la nuova elite kosovara e che si chiama il partito Un Nuovo Respiro per il Kosovo. Si spera che in futuro riesca in qualche modo a rappresentare la classe urbana e dell'Italia del Kosovo, poiché in Kosovo soprattutto si nota una forte sfiducia, non solo nelle istituzioni che sono molto segnate dalla presenza internazionale, ricordiamo qui che il Kosovo è uno stato di nuova indipendenza appunto di 2 anni fa ed è molto monitorato dalla presenza sia europea che statunitense e appunto dell'ONU e ha delle istituzioni piuttosto fragili, e i politici sono sempre molto coinvolti in affari di corruzione e diverse, sono molti di loro sono sotto processo, infatti. Quindi insomma anche una mancanza di fiducia della popolazione nei confronti della classe dirigente, c'è già voglia di rinnovamento? Infatti è questo che innanzitutto bisogna mettere sul fatto che il Kosovo ha avuto un ricambio di elite molto sconvolgente negli ultimi anni, cioè negli anni post-conflitto, poiché è stata stigmatizzata tutta l'elite jugoslava e quindi l'elite non è abbastanza preparata, non ha delle idee, non ha un background professionale valido da poter offrire appunto delle soluzioni ai tantissimi problemi che il Kosovo ha. Infatti i partiti politici non si distinguono l'uno dall'altro, a differenza del Vezendosia, che è appunto un movimento molto radicale e che rappresenta a sua volta anche una serie di incoerenze. Ricordiamo che Vezendosia è un movimento di autodeterminazione con appunto diretto e fondato da Bitti, che è un personaggio dai diversi precedenti penali. Infatti è abbastanza discutibile il fatto come sia riuscito a candidarsi in queste elezioni, e che si presenta in politica proprio a causa di questa sfiducia che i kosovari hanno nei confronti dei partiti tradizionali. E infatti secondo gli sondaggi si attende che i partiti principali a posizionarsi meglio saranno tradizionalmente il PDK, cioè il partito uscente, il PDK, e in terzo posto il Vezendosia di Albin Kurti. Insomma, il che era rappresentativo di quelle che sono le attese. Tra l'altro, ricordiamo che il Kosovo non solo è una nazione giovanissima, ma è composta anche da giovani, perché oltre il 60% della popolazione è costituita da giovani, e insomma le speranze sono veramente affidate anche a loro, e questa nuova forza politica mira proprio a questo target. E Mariola, un'ultima domanda: tu ora sei in Albania, credo che anche l'Albania sia molto attenta a queste elezioni. Ci sono dei timori, ci sono delle aspettative particolari dell'Albania rispetto a quello che potrebbe accadere domani in Kosovo? Sì, appunto non ci sono delle conseguenze dirette di quello che succede in Kosovo, però la novità di queste elezioni è appunto l'entrata, o meglio l'espressione chiara del nazionalismo, nel senso che Vezendosia infatti è un movimento abbastanza incoerente, perché è un'espressione della sinistra europea, cioè si vede che questa è tutta gente che si nutre di Le Monde Diplomatique, per dire, e degli articoli di Slavoj Žižek e così via, però allo stesso tempo sono anche molto nazionalisti e mirano all'unione del Kosovo con l'Albania, il che in questo clima molto positivo che si sta ci sta appunto sta iniziando adesso nei Balcani, ricordo qui il fatto che ci sono dei miglioramenti dei rapporti tra la Serbia e l'Albania, ad esempio, che ormai possono i cittadini serbi e quelli albanesi possono viaggiare liberamente reciprocamente nei due paesi. Allo stesso tempo c'è la Serbia sta accettando di iniziare dei negoziati con il Kosovo, i serbi del Kosovo stanno partecipando a queste elezioni, quindi i Balcani decisamente stanno migliorando in questo senso. Insomma, una situazione in divenire. Do ancora il sito dove potete trovare tutti gli articoli, ci sarà un tuo collega sempre dell'Osservatorio Balcani e Caucaso che seguirà le elezioni, Francesco Martino. www.balcanicaucaso.org è il sito, l'abbiamo già pubblicato anche sulle nostre pagine Facebook. Ciao Mariola, grazie per il tuo contributo, come sempre ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Buon sabato. Grazie, buon sabato a voi. Europostit. Per un mondo più sostenibile. Un concorso, ma anche un portale per riflettere su come costruire un mondo nel quale le risorse siano sufficienti per tutti. Come si può quindi immaginare di risolvere la questione delle risorse tenendo conto che la popolazione mondiale è in aumento? A questa domanda possono rispondere i giovani europei tra i 18 e i 30 anni, per i quali è aperta la seconda edizione del concorso Sustainable Thinking Platform. Si può partecipare realizzando un video, delle foto o dei testi scritti. Per partecipare c'è tempo fino al 31 dicembre 2010. Il sito per partecipare è sustainablethinking.eu. Questi sono i nostri Europost-it, sono indicazioni dritte e coordinate per Per sapere quello che accade in Europa, tutti i link sulle nostre pagine in Facebook e sul nostro sito radio24.it. Ma ogni settimana insieme ad Euronet troviamo anche un argomento comune che andiamo a trattare, che andiamo a decifrare con tutte le altre radio europee, appunto per avere diversi punti di vista dal continente. Il focus di questa settimana, proprio oggi che è la giornata mondiale dei diritti umani, va in questa contaminazione. Lo spunto viene preso da quello che è successo con WikiLeaks in queste settimane, insomma è un po' l'argomento, il portale del momento. Ecco, è giusto sapere sempre tutta la verità? Questo è un po' il tema che ha scatenato il fatto di WikiLeaks, insomma la questione di WikiLeaks ha posto la libertà di informazione al centro dell'attenzione. Quanto dovremmo sapere? È giusto, come certi politici hanno detto in queste settimane, che per questioni di sicurezza, insomma, venga temporaneamente limitato il diritto civile dell'informazione? Insomma, la questione è aperta, tantissime discussioni, tantissime opinioni. Anche noi a livello europeo volevamo un po' affrontare l'argomento, quindi per avere qualche suggestione, per avere qualche ragionamento, abbiamo invitato una persona che ha fatto della libertà di informazione, di fatto una professione, insieme al suo portale, non è il solo, ma lui lo dirige. Diamo quindi il benvenuto a Francesco Piccinini, direttore di AgoraVox, uno dei più popolari siti di giornalismo partecipativo online, ha sede in Europa e anche a Parigi, scusate, ma anche le pagine italiane ormai sono seguite. Un successo, un'affermazione che proprio dà merito a questo desiderio di rendere l'informazione più libera e più partecipata. Ciao Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Beh, insomma, voi avete trattato tantissimo il tema WikiLeaks, anche oggi nelle prime pagine di AgoraVox c'è tanto spazio. Però presentiamo prima: che cosa rappresenta per voi di AgoraVox la libertà di informazione? Perché è un'esperienza, non è l'unica, ma è assolutamente significativa di un cambiamento che il giornalismo sta avendo sotto i nostri occhi. Penso che la libertà di informazione sia dare la possibilità alle persone di essere informate e allo stesso tempo di controllare quelli che sono i mezzi di informazione. In realtà, dagli albori del giornalismo, come dagli albori della politica, noi abbiamo dato una delega a determinate persone, che possono essere appunto politici o giornalisti, a gestire il bene pubblico, a gestire l'informazione. Però questi poteri vanno a loro volta controllati. È un po' AgoraVox è questo, è un watchdog di cittadini che controllano che le informazioni vengano date correttamente. E soprattutto che vengono affrontati temi che i cittadini credono siano veramente importanti. Sono i cittadini che diventano giornalisti, ma diventano anche i controllori di fatto dell'informazione che viene pubblicata. L'edizione francese di AgoraVox conta 1,5 milioni di lettori, oltre 50,000 reporter, è il secondo sito dopo Le Figaro, è la seconda fonte di notizia su internet, ma anche la versione italiana, che è più recente, sta avendo una costante diffusione. E come mai la scelta comunque di rimanere a Parigi con la sede del sito? Diciamo che stiamo lavorando per fare un piccolo cambiamento. In realtà speriamo tra breve di spostare la redazione da Parigi a Scampia. È nata inizialmente a Parigi perché l'equipe tecnica e la base operativa appunto francese era qui, e poco a poco abbiamo iniziato a lavorare a questo piccolo sogno, progetto, che è quello di riportare un giornale fatto dai cittadini in un luogo in cui c'è bisogno di cittadinanza. Francesco, andiamo alla nostra questione, ovvero alla questione WikiLeaks. Cosa ha scatenato in voi? Insomma, sono arrivate voci di censura, no? Queste cose non vanno pubblicate, queste cose sono pericolose, queste cose non sono informazione, sono solo gossip. Ecco, è un tentativo di ingabbiare l'informazione o è un tentativo di, insomma, facciamo differenza tra ciò che è informazione, tra ciò che va diffuso e tra ciò che invece è altro? Sai, spesso si è parlato di quelli che sono i fatti e di quelle che sono le opinioni all'interno dell'informazione. Beh, io penso che quello che emerge dai cable di WikiLeaks sono fatti, prima di tutto, e quindi i fatti vanno sempre mostrati. E poi bisogna anche avere uno sguardo meno provinciale. Spesso si è parlato di gossip semplicemente perché è emerso perché in Italia si è parlato dei festini di Berlusconi, ma ieri noi aprivamo con la notizia che tra i vari cable, per esempio, c'è uno in cui si parla chiaramente della Shell, della sua presenza nel Niger e di come la Shell abbia i suoi uomini all'interno di tutti i ministeri del Niger e della Nigeria. Questo per me è una notizia e questa notizia non l'è letta da qualche altra parte. E secondo me, se non ci fosse stato WikiLeaks, tante notizie di questo tipo, ma anche, ne faccio un'altra francese, della quale non si è praticamente parlato in Italia, il fatto che gli americani non pensavano che Nicolas Sarkozy sarebbe stato eletto, queste sono notizie importanti perché ti fanno leggere la geopolitica mondiale da un altro punto di vista. Tu sei il direttore della versione italiana di Agora Vox, però immagino che insomma tieni un occhio anche sulla versione francese e quella inglese. Visto che sono i cittadini a fare i giornalisti nel vostro portale, ci sono state reazioni diverse rispetto a questo argomento tra inglesi, francesi e italiani? E ci sono anche approcci culturali appunto differenti? Online, ti dirò, c'è stata un'unanimità da parte dei cittadini nell'approccio, è stata una cosa molto positiva, quasi tutti sono stati entusiasti e c'è anche stato un grande movimento di intelligenza collettiva, se così possiamo chiamarla, in cui man mano le persone si dividevano i cable per analizzarli e per spulciare quelle che potevano essere le tematiche più interessanti. Ecco, quindi credi che internet sia un'ultima frontiera, comunque una frontiera importante di questa libertà di informazione, insomma, che voi cercate di viverla e portarla avanti? Io personalmente, anch'io qui mi sento libero, non sento pressioni sull'informazione che faccio, che tento di fare, però probabilmente è una posizione privilegiata, insomma, sono fortunato, però pensate sia rimasta veramente la rete come ultimo baluardo di questa libertà di informazione? Sono rimaste le persone, che è una cosa sempre differente. Io penso che chi fa il mestiere, il giornalista, ma anche il citizen reporter, che non è un mestiere, il suo obiettivo deve essere fare ciò che fa e farlo bene. Quindi non è il mezzo alla fine è solamente un amplificatore. Ciò che viene alla base di tutto è la persona. Che la persona sia onesta con la propria coscienza, che la persona faccia il giornalista in una maniera corretta, e forse questo è probabilmente quello che troppo spesso viene a mancare, e le cronache italiane degli ultimi tempi vanno purtroppo in questa direzione, ma vanno anche le cronache francesi. Io, l'affare Karachi di 13 ingegneri morti molto probabilmente in seguito a un attentato pakistano è emerso prima sui siti come Agora Vox ed è arrivato solamente 2-3 anni dopo sui grandi giornali. In realtà, se ti dovessi dire, su internet semplicemente riusciamo a trovare più spazio di quanto forse non troveresti altrove. Un'ultima domanda, Francesco, ma l'autorevolezza che magari una firma famosa, no, l'acquisisce sul campo, sull'esperienza, ecco, come si fa invece a dare autorevolezza a un'informazione, a un articolo, a un giornalismo realizzato da un non professionista, da un semplice cittadino che ha voglia di raccontare un fatto? Ecco, in questo caso l'autorevolezza come la si garantisce? Scusa? È data dalla prossimità. Se io sono vicino a un evento, ho un'autorevolezza perché io quell'evento l'ho visto e vissuto. Ti faccio un esempio banale: non c'è bisogno di dare autorevolezza a un video del fango di Atrani, perché le immagini parlano da sole. Però un cittadino che se te lo racconta a parole, senza video, perché semmai non ha il suo videofonino in quel momento, penso che abbia la stessa autorevolezza di una grande firma che si trova e che lo racconta dal suo desk. Secondo te un'Europa raccontata dai cittadini è molto diversa dall'Europa raccontata dai giornalisti o dall'Europa raccontata dai politici? Allora ti invito a fare un piccolo gioco. Guarda, sì, le statistiche degli articoli. Se ora vai sugli articoli più letti di Agora Vox di questa settimana, sì, probabilmente non troverai quasi nessun articolo che combacia con quelle che sono le aperture dei giornali, dei principali giornali. Purtroppo i cittadini cercano altra informazione, che è un'informazione veramente fatta di fatti e poco parlata. E penso che bisognerebbe accontentarli in un certo modo. Grazie davvero Francesco Piccinini, direttore di Agora Vox. Ricordiamo il sito, che è www.agoravox.it. Grazie a te. Ciao Francesco, buon sabato, grazie. Ciao. Europost-it. Il formato salva alberi. Lo ha inventato il WWF tedesco. C'è già la versione per Mac, ma sta arrivando anche quella per Windows. Si tratta di un nuovo formato per salvare i file di testo. Chi salva un file nel formato WWF, quindi, crea PDF e soprattutto lo rende non stampabile. Lo slogan ne spiega bene la finalità. Salva come WWF, salva un albero. Così si evitano sprechi e si tutela l'ambiente. Il sito del programma è saveaswwf.com. Questa è l'altra Europa, loro sono gli ABBA, Money, Money, Money. Sì, perché vogliamo raccontarvi un'altra Europa anche attraverso gli euro, o meglio attraverso i viaggi che fanno le nostre banconote. Anche voi potete proporci argomenti in questo programma, l'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it e proprio a questo indirizzo ci hanno scritto per chiederci: ma voi lo conoscete il sito eurobilltracker.eu? E allora, confesso che ne avevo già sentito parlare, però non avevo mai approfondito questo gioco, perché di fatto è un gioco curioso per vedere cosa succede a una banconota quando appunto esce dalle nostre tasche una mattina mentre siamo al bar per prendere un caffè e inizia il proprio viaggio, un viaggio che porta fuori città, fuori provincia, fuori nazione, un viaggio attraverso l'Europa. E questi viaggi vogliamo conoscerli per capire anche il perché uno si mette a tracciare una banconota, cosa c'è dietro a questa che potrebbe essere una sana e bizzarra follia. E abbiamo quindi convocato un utente del sito, si chiama Karen, è una bancaria di Malta, quindi abituata a toccare banconote e appunto si è appassionata a inseguire gli euro. Ciao Karen, benvenuta all'altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Ciao, buon sabato. Che tempo fa intanto a Malta? E oggi è un po' freddino, però c'è il sole. Uh-huh. Ma lì l'inverno è tosto o si sopravvive? No, sopravviviamo, di sicuro. Perfetto. Non c'è mai neve qui, c'è molto sole anche in inverno. Mm-hmm, insomma, ecco, siamo già abbastanza invidiosi. Ho visto delle facce attorno a me che hanno detto, beata lei, beati voi. Karen, tu lavori in banca, quindi sei abituata, insomma, ad avere banconote attorno, sì, a te, è vero, immagino. È vero. Mm-hmm. E però come mai ti sei appassionata a questa caccia alla banconota in giro per l'Europa? È un argomento un po' curioso perché, sai, le prime mie banconote sono state inserite da Milano perché ero in vacanza a Milano qualche giorno prima che Malta è entrato nella zona euro. Sì? Allora mi sono rimaste 5 banconote che le ho tenute per usarle il 1 gennaio del 2008 perché noi abbiamo l'euro da quella data. Mm-hmm. Poi sono membro in un forum maltese e un utente olandese ha scritto che c'è questo sito dove tracciamo i soldi, eccetera, eccetera. Io ho detto, ma questa gente non ha più da fare. Ha tanto tempo libero. Fare questo. Esatto. E mi sono incuriosita, sono entrata, registrata e ho inserito le mie prime banconote da Milano. Sì. Per vedere quello che sarebbe successo, insomma. È vero, adesso ne ho tantissime, su 400.000 banconote. Ah, tu hai 400.000 banconote tracciate? Sì. Ah, allora anche tu hai tanto tempo libero, scusa se... È vero, è vero. Ma allora, ma spiegaci bene come funziona, nel senso che uno prende una banconota e cioè, cosa deve, come si fa a tracciare? Ogni banconota ha... Sì? Ok, ogni banconota ha il suo seriale, okay. Ha un piccolo codice corto al davanti della banconota che significa dove la banconota è stata stampata, poi c'è un seriale al retro della banconota che comincia con una lettera, sì. E questa lettera rappresenta il paese per quale questa banconota è intesa. Perfetto. Per esempio, fresche abbiamo trovato le banconote che iniziano con la lettera E, che sì. Sono intesi per la Slovacchia, sì. Che però sono state ritrovate, localizzate prima a Roma, da un utente a Roma. Perché, scusami, funziona che tu di fatto i segni vai a segnare nel sito, vai a tracciare una... una banconota con questo numero seriale, e la speranza è che qualcun altro che è iscritto al sito si ritrovi con questa banconota tra le mani e vada quindi a segnare lo stesso codice. In questo modo, se lo stesso codice combacia in varie zone d'Europa, riuscite a tracciare un po' il percorso. È questo, esatto, il ragionamento. Insomma. Esatto. Ci sono 161.000 utenti in tutta Europa che fanno come me, che tracciano i soldi, il seriale dei soldi nelle loro tasche, che sono nelle tasche dei loro parenti, eccetera, eccetera. E quindi viene fatta una sorta di mappatura dei viaggi delle banconote in Europa e trovate storie curiose per avere un'idea appunto anche di quelli che sono i risultati finali? Sì, moltissime. Per esempio c'è una cittadina divisa tra il Belgio e l'Olanda, dove il comune è in Olanda, però la cittadina è belga, che è Baarle-Hertog. Oh, ok, e quindi c'è un passaggio continuo di banconote tra una nazione e l'altra all'interno dello stesso paese? Sì, c'è un posto che ci sono qualche divisamenti nelle strade sui marciapiedi, che al lato destra è il Belgio, al lato sinistra è l'Olanda, per esempio. Che uno può essere in due nazioni nello stesso tempo. Ho capito, quindi lì immagino che il viaggio dell'euro da una nazione all'altra sia molto frequente. Ma e ci sono anche viaggi da record? Cioè la banconota col viaggio più lungo, più complicato, esiste, è stata individuata? Sì, ha fatto 15.537 chilometri. Insomma, andando dalla Finlandia alla Thailandia e indietro alla Finlandia. Insomma, è un gioco, no? C'è l'aspetto ludico, che credo che sia il motivo principale per il quale uno si appassiona a questa cosa. È un gioco di rete, perché avete sentito quanti utenti che ci sono. Il tutto è gratuito e non ha secondi fini, mi pare di capire. No, è soltanto un gioco per riunirci un po' dalla Germania, dall'Italia, da noi maltesi, anche facciamo due meeting all'anno. Siamo stati a Firenze l'estate scorso per un meeting internazionale lì, siamo stati molto bene con gli utenti italiani. Insomma, è questo, no? L'Europa si fa anche con l'euro, in questo caso in modo atipico, ma ci piace. E un'ultima domanda, Karen, ti sei mai ritrovata a distanza di anni la stessa banconota in tasca dopo che aveva fatto? Una mia che l'ho trovato io. Sì. Sì, e non mi piacciono perché la banconota così non viaggia molto, perché se la trovo io dopo 2 anni nella stessa località dove l'ho tracciata prima io, non è una bellissima cosa, no, per me. La traccia. Ci sono altri che sognano di trovarne una, però io ne trovo tantissime. Ho capito. Karen Pace, grazie davvero. Ricordiamo il sito eurobilltracker.eu, l'abbiamo già pubblicato sulla nostra pagina in Facebook, così anche voi potete accedere, l'iscrizione assolutamente gratuita. Ciao Karen, grazie, buon viaggio con i tuoi euro in tasca. Ciao, ciao, tutte ciao. Buone feste, buone hit a tutti. Grazie anche a te. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Geologia a portata di click. Dopo 2 anni di preparazione è online One Geology Europe, la prima mappa geologica multilingue e digitale d'Europa. Il nuovo portale permette ai cittadini di conoscere gratuitamente la situazione geologica del proprio territorio, ma anche quella degli altri stati europei. Basta cliccare sull'area di interesse per scoprire dati relativi al tipo di rocce, alla presenza di faglie, falde acquifere. Con il portale, inoltre, è possibile effettuare uno studio approfondito per l'individuazione dei siti più idonei per l'installazione di centrali nucleari. Con il mouse all'indirizzo portal.onegeology.org. Continuiamo a parlare dell'Europa e di quando l'Europa si può trovare dietro casa. Anche questa è l'altra Europa. È la storia di un fotografo gallese che proprio ieri ha inaugurato una mostra particolarissima a Bologna, nello spazio Urban Center. Si intitola Hinterland, la bassa bolognese, un'identità in trasformazione. Insomma, si può partire dalla bassa bolognese per raccontare l'Europa e viceversa. L'Europa può diventare metafora di qualcosa qualcos'altro, fotografando le nuove case, le nuove costruzioni in una zona che è un po' nel cuore della pianura padana. Lui si chiama Rodri Jones ed è qua con noi. Ciao Rodri. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, hai trovato tracce d'Europa nella bassa bolognese? Certamente, ma sia nelle case, ma anche ovviamente fra la gente anche. Mm-hmm. Allora, un lavoro bellissimo, perché tu di fatto con la tua macchina fotografica sei andato alla caccia di segni di trasformazione. Che trasformazioni volevi trovare, volevi cercare, volevi cogliere? Ma non è che vado a cercare qualcosa, cerco di fotografare quello che c'è. Volevo fare un lavoro un po' diverso di quelli fatti in precedenza, perché la bassa veramente sta vivendo una trasformazione molto particolare, si sta ripopolando e la popolazione delle zone della bassa bolognese è raddoppiata negli ultimi 20 anni. Ed era questo che volevo un po' documentare per capire anche dove si va in futuro, insomma. E tu vivi nella bassa bolognese da una decina d'anni, anche se il tuo lavoro ti porta continuamente o ti ha portato in giro per l'Europa, in giro per il mondo. È difficile da straniero, quale tu sei, immergersi e vedere una realtà attraverso l'obiettivo della macchina fotografica, o è un privilegio? Secondo me io ho avuto un gran fortuna, perché non ho un bagaglio nostalgico, diciamo così, anche se ormai mi piace molto la bassa e lo voglio bene, insomma, però non ho i racconti del babbo, del zio, del nonno di come era la bassa, perciò io non ho questo bagaglio nostalgico, perciò per me era più facile fare un lavoro su una modernità, un avvenire quasi. Tu hai cercato case moderne o case diverse, ma hai trovato anche storie moderne e storie diverse, perché hai fotografato case e persone. Qual è stata la contaminazione migliore? Nel senso che hai trovato tracce di internazionalità in questa bassa bolognese attraverso le persone che hai incontrato e che hai fotografato? Ma sì, certamente sì, perché di questa popolazione che è raddoppiata, gran parte sono persone che sono uscite dalla città di Bologna per andare a vivere nella bassa, ma c'è anche un percentuale molto grande di forestieri come me che vengono da altre parti dell'Italia, altre parti dell'Europa, ma anche altre parti del mondo, e io trovo questa una cosa bellissima. Rodri, questo è solo il primo passo, vuoi andare a cercare altre basse, vero, in giro per l'Europa? Ma mi piacerebbe molto fare un lavoro in altri posti in Europa simili, nel senso che è questo hinterland di queste città storiche che stanno sviluppando nel mio tempo, nel tempo della mia vita, e sarebbe carino secondo me andare a vedere diversi posti in diversi paesi, non lo so, magari un lavoro in Polonia, un lavoro in Scozia, un lavoro, magari un altro lavoro da qualche parte nel Mediterraneo. Vedremo. Ok, noi ti seguiremo. www.urbancenterbologna.it per avere tutte le informazioni sulla mostra Hinterland, la bassa bolognese, un'identità in trasformazione. Ciao Rodri e complimenti per il tuo lavoro. Buon sabato. Grazie, ciao a tutti. Europost-it. Una piccola grande rivoluzione. Basta con le solite cartine turistiche che ingombrano, che si rompono, che vanno ripiegate nel modo giusto, altrimenti non si riescono a conservare. Per i turisti è nato un nuovo e sorprendente oggetto, la mappa da strapazzare. Si chiamano Crumple City Maps e sono proprio delle cartine turistiche realizzate con un materiale speciale che le rende stropicciabili, leggerissime e super resistenti, anche all'acqua. Per ora ne esistono solo 5, quelle di New York, Londra, Roma, Parigi e Berlino. Costano 12 euro e si possono comprare sul sito palomarweb.com. Questa è l'altra Europa. Cerchiamo di raccontarvi anche l'Europa, una nuova Europa, attraverso le storie di chi l'Europa la vive giorno per giorno. Oggi andiamo a Londra, quindi andiamo nel cuore, insomma, nel cuore dell'Europa. una capitale dove c'è molto fermento, insomma, in tutti i sensi in questo periodo, e però insomma è anche un incrocio di storie, di esperienze, di incontri, una città dove qualcuno dice tutto è possibile, e forse la storia che veniamo a raccontare rispecchia proprio questa verità. Lei è italiana, è italianissima, ma da tantissimi anni vive a Londra e si è sempre occupata di business legati ai mercati valutari, e insomma, quindi un ruolo primario lì nella City. Poi un giorno ha deciso di cambiare vita, si è chiesta: ma è questo che voglio fare? Perché c'è chi va all'estero perché si sente il cervello in fuga, c'è chi all'estero trova un proprio habitat, una propria identità, c'è chi all'estero trova anche il coraggio lì, rimanendo lì, di cambiare vita un'altra volta e magari passare dalle valute ai gioielli e diventare quindi artista. Diamo il benvenuto ad Annalisa Ponti. Ciao Annalisa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Allora, tu laureata alla Bocconi, sei arrivata a Londra con un obiettivo preciso, che era quello di lavorare in quel mondo. Sì, io mi sono laureata alla Bocconi, ho lavorato in Italia nell'ambito finanziario per un po' di anni e poi sono partita per Londra per sviluppare un'esperienza un pochino più internazionale, quindi ho lavorato per diversi anni nell'ambito finanziario, nel valutario, come appunto dicevi, per alcune banche di investimento, e sono stata veramente molto molto impegnata per molti anni, perché diciamo che dal 2000 al 2008 pre-crisi il mercato finanziario qui era veramente un mercato in fortissima espansione, quindi professionalmente per me è stata una grandiosa esperienza, perché ho potuto veramente tirare fuori il meglio, insomma, ed è stata un'esperienza molto molto appagante, anche particolarmente drenante. Immagino, quindi insomma una donna in carriera come tante altre giustamente, e la tua non è stata una fuga dall'Italia, credo. No, è stata una grande opportunità che ho colto a un certo punto, perché io lavoravo già in Italia per una banca internazionale e quindi il mio nome comunque era abbastanza conosciuto nell'ambito di banche di investimento non italiane, e un'altra banca mi ha offerto la possibilità di venire a Londra a lavorare per loro. Avevano intenzione di sviluppare un determinato business in cui in quel momento io ero particolarmente coinvolta, e ho accettato la sfida e sono venuta a Londra una decina di anni fa su appunto un invito, insomma una chiamata da parte di una banca internazionale. Quindi un 18 anni di carriera all'interno della finanza, una decina di questi anni passati a Londra, e un giorno hai deciso che Londra ti dava la possibilità di cambiare vita. Cos'è successo? È successo che, insomma, dopo 18 anni, come dici tu, nell'ambito dello stesso lavoro, con un ritmo particolarmente frenetico e intenso, la voglia comunque di tirare il fiato c'era già da un po', nel senso che te lo chiedi diverse volte, insomma, faccio questa vita, lavoro 12 ore, 14 ore, 16 ore al giorno, il lavoro diventa la tua vita, e secondo me capita quasi a tutti, o comunque capita a molti, di chiedersi è giusto così, sarà giusto così, è arrivato il momento di fare qualcos'altro, è arrivato il momento di pensare un pochino più a recuperare il tempo, a recuperare lo spazio che in questi anni sto dedicando al lavoro così intensamente. Quindi la domanda un po' frullava nella mia testa, e devo dire che, complice la crisi del 2008, che in effetti ha scosso particolarmente Londra e la finanza, sono successe diverse ristrutturazioni aziendali, ci sono stati veramente dei cataclismi qui nell'ambito delle banche, e complice questa cosa, che in effetti ha, come dire, messo un bello stop, o comunque sia ha fatto pensare anche profondamente a tante cose, io ho detto: ma forse è venuto il momento veramente di cambiare aria, insomma, di recuperare un po' di tempo, di spazio, di passione per cose che sono al di fuori dei mercati, di organizzazioni particolarmente grosse, di meccanismi, di regole e via dicendo. E così ho deciso che in fondo io una passione ce l'avevo, che era quella appunto della gioielleria, degli accessori di moda, ed era una cosa che ho sempre fatto a tempo perso, rubando un po' weekend, tempo qua e là per frequentare corsi o per darmi da fare appunto a disegnare, a realizzare qualche pezzo. Insomma, ho deciso che forse era il momento giusto per provarci in una maniera diversa, e così ho detto: via, proviamo. E in questa città, devo essere sincera, ho trovato la possibilità di farlo. Infatti, Annalisa, perché credo che al di là delle tue scelte personali, che insomma sono assolutamente personali, quindi soggettive, e va benissimo, la cosa bella che insomma mi piaceva anche raccontare all'interno dell'Altra Europa è questo, cioè lì avevi un sogno, era quello di diventare designer di gioielli, hai aperto un sito che vuoi dare subito l'indirizzo, così vediamo anche, possiamo dare il tuo portale, qual è? Il mio portale è www.7souls.co.uk. Perfetto, l'abbiamo pubblicato in diretta anche sulle nostre pagine in Facebook. Ecco, questa città, questa Londra ti ha coccolato, ti ha dato la possibilità di realizzare questo tuo sogno, questo tuo progetto. Si può fare? Sì, si può fare ed è molto facile perché Londra è un po' una città, a parte dove esistono tante cose da fare, tante cose che si possono perseguire, ma è facile anche da un punto di vista burocratico. Cioè, io sono passata da avere un lavoro dipendente con determinati meccanismi e determinate regole ad avere un'impresa personale fondamentalmente, ma tutto questo nel giro di 5 minuti, cioè tutto sul sito. Ho semplicemente composto un documento online, il tempo di composizione probabilmente 30 secondi e sono diventata un'imprenditrice. È una cosa veramente incredibile pensarci, ma è così. E quindi mi sono iscritta in una veste diversa ovviamente al registro delle tasse ed è andato tutto così molto semplicemente, senza grossi problemi. È una città dove c'è molta facilità nel reinventarsi, anche perché non c'è un carico burocratico particolarmente pesante, per cui diciamo che anche psicologicamente, se ti devi vestire di un'altra veste e la cosa è molto smooth, è molto fluida, ti spaventa meno perché non hai grossi, veramente non è stata una cosa particolarmente impegnativa neanche da quel punto di vista, quindi non ho dovuto fare cose particolari o pensare di avere degli impegni immediatamente pesanti da un punto di vista fiscale o via dicendo. È stato molto molto facile. Insomma, facile, appunto, no, scusami, dimmi. No, dicevo anche l'opportunità poi di andare a scuola, di imparare corsi di tutti i generi aperti a persone di qualsiasi età, non ci sono limiti. Cioè, io ho frequentato un famoso college qui a Londra che è un college focalizzato proprio su tutte le arti, St. Martin's, uh-huh. College famosissimo che laurea designer che... Insomma, ti ha dato anche lì la possibilità di farlo. E, Annalisa, grazie davvero per averci raccontato la tua storia, ci troveremo sicuramente ancora qui all'Altra Europa perché vogliamo seguire questa tua attività. 7souls.co.uk è l'indirizzo che troverete sulle nostre pagine in Facebook. Ciao e grazie, ciao, buon sabato. Grazie, Annalisa. Federico, ciao. Chiudiamo in fretta, un grazie ad Alba Chiara Rondelli e Margherita Ina che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleoni alla parte tecnica, l'Altra Europa @radio24.it se volete farvi vivi, oppure ci ritrovate in Facebook nelle nostre pagine ufficiali. Ciao, ci ritroviamo qua sabato prossimo.